guardate, la musica è eccezionale, eccezionale, eccezionale, eccezionale. My father name was Elijah and my name is Ragnar Paisa. Senti Tommy, dobbiamo riuscire prima della fine della puntata, quindi entro le 22.30, a scucire il 25ino a Duccio. A scucire l'orlo dei tuoi pantaloni. Quello c'ho bisogno di farlo, hai notato? Sono un po' lunghi effettivamente. Ma sai, sono freschi freschi, erano tipo un po' cartonati di legno sti jeans. I famosi jeans di ciliegio. Esatto. Che hanno provato dai falegname. Se non li inizi a mettere un po' di volte. Prima gli devi dare una scarpa vetratina. Quello è il segreto. Anche se un tempo usavamo il termine cartonato per altre cose, ma lasciamo perdere, ricordi troppo lontani. Storia di Tavernello. Jay-Z sa cosa, a cosa mi sto riferendo. Ah beh. Intanto io preparo l'assortimento di proposte che vi facciamo per il fine settimana, per quanto concerne DJ set, eventi da segnalare in giro. Ma quando il nostro orologio segna le 21.05, anche per dirvi che siamo in assoluta diretta dallo studio 1 di Contraradio, via del Rosso Fiorentino 2B, se ci volete passare a trovare. Ma chi era sto Rosso Fiorentino? Ma te l'ha mai visto? Era un pittore. Ah, pensavo fosse uno, c'era un buffo. Ma non vorrei aver fatto una di quelle gaffe storiche che me la segnano nel ventennale della radio. Pensavo, sai, fosse il Rosso Malpelo qui di Firenze, il Rosso Fiorentino. Ora ci infamano gli ascoltatori, guarda, anzi vi do uno strumento per farlo, 055 73 99933. Si scherza, ora se no davvero si passa poi per lo delle sappiamo capre, chi è Rosso Fiorentino, è chiaro. Dobbiamo annunciare a tutti gli ascoltatori, quelli che sono abituati alla scaletta consueta, insomma, perché questa trasmissione sembra iniziata nella maniera normale, normale lo sarà fino a un certo punto. Perché per il resto avremo degli ospiti che sono già... Non è una puntata come tutte le altre. Stasera special guest inside, proprio dentro l'acquario. In the building. Niente po' di meno che Numa Crew. Numa Crew. Rappresentati dal Ninja al microfono, Boz e Numa, così abbiamo fatto tutti i nomi. E Numa, cioè l'ha ridetto. Ah no, è Lapo. Boz e Lapo. Ha fatto un laps. E suona anche il campanello. Sì, suona il citofono adesso. Sarà quindi arrivato. Vado ad aprire e l'omino saluto. Con le pizze. L'omino con la barba. Intanto Duccio suona per voi. Buon ascolto. National Control. Nine dogs. The other people there, time to check out this one. Digital web original. Digital web original. Digital web original. Digital web original. Watch out, call the beat one. In come the juice, I come get kinda lyrical. Listen, I'm against digital. Come and bring the freak shots in on the dance and original. We get one big of the original lyrical teacher. My professional in our area. Listen, I'm a country with the style of papa. Go straight to where I deliver. Crowd of people, are you all in here? Dropping that lyrical thing down right here. Crowd of people, are you all in here? No stuff for them, yes, we reappear. We get one crowd of people, are you all in here? Dropping that lyrical thing down right here. Crowd of people, are you all in here? No stuff for them, yes, we reappear. You know I need you. Closer, Come on, don't stop now. You done did it. Come on. Yeah. All right. Hold up. Bad boy. like this right here. Ma io volevo finire almeno di mangiare la barretta energetica col nome del filosofo che, che Tommy ci ha gentilmente fornito. È finito così il set del buon Duccio, che ha avuto l'onere e l'onore di iniziare questa puntata di Ragnan Paisa. Ma vedo che il nostro acquario è particolarmente animato. Più pesci del solito questa sera, pesci grossi, per usare un linguaggio così da pesca sull'Arno. Perché andiamo a trovare Boz e l'apo della crew di Numa, anche per celebrare l'attesissima uscita numero 003 del catalogo della loro label, la Erba. Nell'ordine Police in Helicopter, Mighty Boz Remix, Bad Boy and Police, l'apo Refix e l'incredibile versione TikTok di Arge in versione Voodoo Remix. Questi nell'ordine i pezzi che troverete da venerdì a disposizione sui principali siti che vendono musica, per esempio quello di Juno, dove digiuno va letto digiuno naturalmente, non digiuno nel senso che sì, non si mangia ovviamente. Invece qui accanto a me quello che sarà la voce ufficiale, come accade sempre, insomma, se siete andati a sentire in giro Numa lo sapete. Yo, Mr. Ninja, buonasera e ben arrivato. Buonasera, ragazzi. Nello studio 1 di controllo. Grazie. L'abbiamo messo sul trespolo, altezza giusta, abbiamo usato di parecchio sì, sì, sì. Il microfono rispetto all'altezza a cui lo uso io di solito. Ok, il mixer di Controradio, il microfono e la console dell'acquario sono tutte per yeah, voi. Numa Crew a Ragnan Paisa, live and direct. Hey yo, un center. E mo' Boz coppa con il suo un sintono. Big, big, big tune. Chance, they go to school and go read. Society a harvest a crime, them no need for me no defense. Ragnan Paisa. Yo, Lapo Boz. La. Ninja Candy Aska on the mic. Do. Now I'm a DJ. Get up, everybody. Keep your fucking hands up. Ragnan Paisa Radio. Tutte produzioni Numa Crew. Big up Boz for that. You're underground, Marty. Kick it, another big tune is coming. Ever. I bad, police, bad. Sì, fra, questo è il fatto. Se stai male va tutto un tratto, forse gli è la colpa di questo basso. Perché quando canto mi diventi bianco qua sotto col bro da sgomito. Sta musica ti dà lo stomaco. Noi il basso lo seguo l'audera, basandoci sulla tua nausea. Con la roba che schivo il mondo te lo descrivo. E non seguo destino, regola l'intestino. Con questa roba te trema stanz. Voglio testare la tua sostanza per poi gettarla di mezza dance. Cani mezza dance, cani mezza dance, cani mezza dance, cani mezza trance. Se te credi Superman, io sarò la tua cristonite. Quando parli mi fai ride, balli come una civile. Se te credi sopra me, solo perché hai perso per salire scale. Non voglio salire ma scendere a pat. Capisci il livello, sai che chi sto fat. Yeah, chi sto fat, chi sto fat. Mo, chi sto fat, chi sto fat. Yeah, chi sto fat, new underground mazze. Usente ca, chi sto fat. Chi sto fat, chi sto fat. Mo, chi sto fat, chi sto fat. Yeah, chi sto fat, new underground mazze. Usente ca, chi sto fat. Chi sto fa, arrivo come bad piston cap, chi sto fa, yeah. Chi sto fa, chi sto fa, yeah. Original bad boys. Io underground mazze sta qua. Live from the radio. Bad boys. Too. Io mo c'è la pala console. Mix down. Police and thief in a shootout. Yeah. Il mio DJ sta mixando. Sento pezzo che arriva qua. This is a new one. Grande gamma si sta qua la Pobot. Original dubstep sound. Fuck yo. Fuck yo MC, mini mini flow, B car, mini mini cook, B cash, mini mini show, yo B fresh, mini mini more. Fuck yo MC, mini mini flow, B car, mini mini cook, B cash, mini mini show, yo B fresh, mini mini more. Fuck yo mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini thing, mini mini king, mini mini thing. Make me mini mini mini like this. New man's big, new man's big. You know that now, new man's big, yo new man's big, new man's big. Ho ho. Ich bin gerade nur Zabala, von der Kamera der Sparkertrag. Ich bin gerade nur Zabala, original Badman Pull up. Mid down. Okay, let's aim to know, okay, let's aim to flow. Lapo boats, back to back. To the beat, to the beat, to the beat. Run out to you. Mix it. Listen at new. Yeah. underground mazze, mio underground mazze. Non voglio gente calda, ti ascolta, ma voglio sentire un cazzo di casina. Se sei venuto per fare un pacco mort, forse è meglio che te ne torni a casina. Che tutte le persone c'hanno voglia dance, mica di fare una riposina. Vire questo dice quando mi insegna, non portare sfiga come Pamassini. Tutti sanno che è Numa Crew, da quel di Rifredi fino a Pratolino, da Milano giù fino al sud, dall'Alaska fino a Berlino. Se la gente balla che te piglia good, fece saltare chi te puntine. Ma veda gente che sta Facebook, forse è meglio che fece i buchine. Ibic, ibic, ibic, ibic, ibic, ibic, usen. Podi, podi la, podi, podi la, podi, podi, prr, come again. Ibic, ibic, ibic, ibic, ibic, ibic, usen. Podi, podi la, podi, io ande gamma si sta. Ragnar Paisa. Yeah. Lapo boats back to back. Teacher. Mamma mia, non è stupendo. Stiga, biga, boat. My soap baby care. No shot in a sky. Good shot in a face. And that flat line apply. Rise guns a ball. Rise guns a tall. No fear boy with them tongue with all. We can't clap like a thunder ball. Pop on the belly like rum to all. So me aim to the grip. You underground massive shot in a sky. No matter blip on them. No the blood starts to brrrr. Your mama think you're coming home. Shot bust them head just like a stone. They love to chat. No, them only find them bone. They miss the patriot. Produzione Numa Groovy, big up, big up, boats. Them me no play. Friendship me no buy. Pussy violate me, make them lovely bad fly. Rise up every kill. No shot in a sky. Bullet in a head and boy flat like a fly. Random this, you want maternity. Scream like baby mother in maternity. Them dead, and we live to eternity. Head hot, it's a fire burn, you see. When we look for some dead boy, I heard, you see. Me can't clap, it's a deep fire burn, you see. We want it, and I bullet for your turn, you see. A some pussy wanna learn, you see. They are hearing from the horizon. Me have to win it. With a rest and casket, with a friend, they in it. Me not laughing, people. They me not get it, I'm not scared. Yeah. Tap your clock, that have your clock. Me no play. Shit me no buy. See violate me make them go mad. Fly spit in a fuse. Shot in a sky. Shot in a head and boy. Blood like a blind. Just me no play. Shit me no buy. See violate me make them go mad. Fly spit in a fuse. Shot in a sky. Shut down. Yo, yo, ancora Numa Crew qua. Original Dubstep set. Boats. Lapo. Ninja Ganja Skull. Yeah. Run that tune. Tune. Big, big, big, big. Yeah. Brrr, pull up, pull up, pull up. Il mio DJ dall'altra parte del vetro fa partire un pull up. Yeah. Put it up again. Mi stai facendo il video senza dirmi niente. Pizza. Underground Radio. Ti alla damasse. Big up Firenze Massi, Lapo, Boats, Coppa la console, Usaint. That's our revolution sound. Per tutte le rivoluzioni di questi giorni. Big up Massi. facciamo un po' di casino, va, burdel. Burdel! In piazza, in strada, Burdel, burdel, yeah, original shot. Boom, shut them, boom, shut again, shut them cause them I shut I shut as much as you can. Boom, shut them, boom, shut again, shut them cause them I shut I shut as much as you can. Contro i capi, shut them, contro chi si crede potente, a chi decide per altra gente, il nostro invito è shut them. La tua legge non ci serve, siamo già fuori da sto gregge, non si regge ca shut them. 8 hertz e questo è il brand, shut them, spara quelli, non ce la faccio più a vederli, non ce la faccio più a sentì. Shot a dem, ya mi buona kill dem, il perché giallo sin den, loro sparano kill dem, tu sei meglio tu si zen, yeah. Shot a dem, shot a dem, rima molesto qui cagli, yeah. Shot a dem, rima molesto qui osi, yeah. Mio underground ma se la po' boz Ragnar Paisa usente. Ora basta con queste cazze, voglio la vera lotta di classe, voglio musica da queste cazze, e il microfono si dà al suo master. Voglio un film come Ghostbuster, che son free come su Napster, che fa il king, fa le proposte, ma è solo chi è qui che dà le risposte. Fulatati, yeah. Another big big big tune from Boats and my group, the spark on soup. Si facendo di sì. Ho quello sento sound. Parate kick in the face. Parate kick in the face. Parate kick in the face, moca smoca la weed, come l'erba di Grace, come arancia, meccanico la ganja, che panica c'ho gli assi, ta manica per questo, rimani qua. Grande gamma, se Zampaisa, yeah. Masse, masse, we are masse, masse, masse, we are masse. Another big big tune is coming. Listen. Circondati da falsi politici, sotto nuvole di agenti chimici, allevati per stare infelici, poi sedati coi dentifrici, con visuali sempre più ristrette, camminiamo sulle bisettrici, dentro campi che restano incolpi, ragginiamo da mietitrici, abituati a sentire la musica pure se la fanno le mitragliatrici, abituati a guadagno zero, abituati a fare sacrifici, abituati a sentire chiamate le vere merdate col nome di regole, abituati a non credere in noi stessi, abituati a sentirci pecore, dalla Romania fino alle Canarie, questo è il messaggio che vorrei portare, pure se ci provi non ci puoi fermare, perché questa fottaletta le invade, già tu lo sai ti devi elevare, perché questa vita ti butta nell'ade, perché questa vita ti butta nell'ade, già tu lo sai che ti butta male, ora che non cercheranno più Bin Laden, forse fanno pure il tempo per pensare, ora che ti parlano di Space Invader, poi ti fanno sotto casa al nucleare, ci sono i pretesti per manifestare contro quelli che si danno arie, non capito che sia noi l'Italia, mo è l'ora di cambiare aria. Me don't care about them, me don't care about money, me don't care about the rules, me just care about groove. Me don't care about them, me don't care about money, money, me don't care about that thing, me just care about sing. Anyway, the girl, them see me, them want me. Me say me alone, I power them, want me. Them see me, now they dance, them want me. Big, big, big, big. Anyway, the girl, them spot me, them want me. Me go tell them, me go play a joke. Nuovo, nuovo. Fazi sing. Up in our belly, belly, belly, belly, belly. Me say, up in our belly, belly, belly, belly, belly. Up in our belly, belly, belly, belly, belly. Me say, stop, alright, stop. Up in our belly, belly, belly, belly, belly. Up in our belly, now the girl, them belly. Up in our belly, belly, belly, belly, belly. Me say, stop. so me say stop it. So when me force it all up in the inne, while she crawl up in the inne, name she call up in the inne, back she want grab up in the. So when she walk by the garage up, like a Nokia, the cocky I go charge up. Atten. Me think I say bring her at a rage up. Get out a nookie, but stop stamp a rage up. No refuse. Anybody girl them see me them one body. They say me alone apart them one body. Them see me not the star them one body. Big, no big, big. Anybody girl them spot me them one hook. Me go tell them me go pay George the R book. Sneak past her man when him not look. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Me say stop, stop, stop. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Me say stop. Cause no, I said could never be a cop. No, I said not punch and not flat. No, I said not go turn from the teeth and eat and the meat. So me not go do that. No, I said not say no to hook. Me stick to girl like on. We stick to hook. I miss a stop. I miss a stop. I said. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, belly. No more tell them. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Me say stop, stop. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Open our belly, not the gang them belly. Open our belly, belly, belly, belly, belly. Me say stop, stop. Boom. Massive. Pisa Radio, then the gamma system. Massive. Ats. Kuduro sound. Kuduro sound. Kuduro sound. Kuduro sound. Non ci stanno parole che stanno bene in questo spazio. Ats, sicuro non me ne avrò cazzo. Al massimo ti faccio un piazzi. Ma al massimo come un cazzo della. Questo è machine gun. Non so proprio perché come ratte canto fatta can con l'azza. Quando esco fuori papà come un terrazzo. Ai. Big up, big up, sister Kinky. Big up that tune. Sister Kinky remix. Ti lavo, ti voglio bene anch'io. Parge che ci sta ascoltando mo. Big up bro. E big up a tutta la Firenze Massi. Numa Mosaka, Numa, Numa Mosaka, Numa. Nyo ande gamase, nyo ande gamase, nyo ande gamase. Big up, Mase. Big up, Mase. Come on, y'all. Se devo aspettare, beh, aspetterò. Lascia che ti spieghi questa cosa però. Troppe le persone che fanno brutto lo show, solo perché ancora non capiscono il flow. Lascia che ti spieghi fra, questo è dubstep. Tipo fare i viaggi ancora più di Star Trek. Ma vedi di non farmi più girare le ball, che ti manda calci culo da qui fino a Bangkok. Oh, solo the best, mo potere. Come chi non ha la sua fiume poi fa festa. Ma il problema è questo, né prima né poi, solamente adesso. Mo, basta con le chiacchiere, sta in fogo. Quando non capisci se partire o no, accelerazione fino a che si può. Che la vita non è fatta solo di soap. Mo, voglio vedere correre i bro, per andare di là dell'info. Se vuoi andare di là io ci sto. Voglio vedere scorrere il blu, voglio vedere correre il blu, per andare di là dell'info. Se vuoi andare di là io ci sto. Voglio vedere scorrere il blu, blu, blu. Big up Masse, big up Masse, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, lo sento sound. Ok, lo sento sound. Ragnar Pizer Radio. Yeah. Lapo Boats, Ninja Ganja Skull. Dubstep set Stata. June. Incopo bit. Don't think I'm my set. Incopo bit. Boots. Listen out, tune. Copo beat, tipo beat, killa. Capper dei sensi come sensi, mia. BNDQ, una scintilla. Rock the beat, for me e ma famiglia. Catch it, see yes, we are. Come to blitz, blitz, yeah. For myself, for my gear. For the song, cal song, yeah. Cada step è divento pazzo. Mats, vire quattro spacca ninja, frase, yeah. Cantando, me revero cazzo, ma non nel senso che vado via. Tengo lo spazio, famo due shot. Costruisco rime che alla fine ti piazzo. Killa cada vazzo con un mare de flow. Killa cada vazzo con un mare de flow. Dimmelo mo, se non ti piaccio. Certo non me sto a terica. Fa mocca, sì, solo un pack, Eric fuck. Manco ma parlare, ma mandami un faz. Tappate la bocca quando parli di rap. Capo manco può capire tutto chi la capazza. Yo, caccia, sai, gine che spacca. Dividi, lasciatela con le rime da faccia. Ah! Un sense. Life set. Alright, massive. insomma dire bomba a mano, che c'è l'acqua qua è un po' con un orecchio fuori dalla cuffia, uno dentro. Preparati mentalmente, Deva. Sì, sì, ci sono. Ciao a tutti, grazie. Grazie Duccio per averci chiamato, Andrea. Grazie a voi. Guarda qui, cioè, sì, due parole e mi smonti la radio. Che è? Eccoci, ci si dovrebbe essere. Sì. Eccoci. Qui è tutto live in direct, quindi anche l'avvito e lo svito e il riavvito c'ha bisogno di sei momenti. Allora, super set di Lapo e Bots. Lapo, parlaci un po' di Numa, delle serate, delle uscite, di quello che vuoi, cioè che non so cosa chiederti io, se no. Vabbè, il lavoro che stiamo facendo con Numa è il lavoro sulla DAPS e sulle produzioni, quindi siamo sempre attivi, stiamo facendo nuovi dischi, il prossimo esce venerdì per l'appunto, per la nostra etichetta Erba, ed è il remix di Police in Helicopter che avete sentito di Boz, più Bad Boy in Police che ho fatto io e Arge con TikTok. Perfetto. E lo troveremo Senti, su Juno. Per ora sarà su Juno un mese in esclusiva. Poi come sempre va su iTunes, Beatport, tutti quelli serviti dalla distribuzione di Juno, insomma. Perfetto. Serate? Serate, che dire? Ora a dicembre siamo un po' fermi. A gennaio di sicuro ce n'è una grossa sul versante drum and bass, che è Hype, il 21 gennaio. Facciamo a febbraio quasi sicuramente Shy FX con Stamina. Grande. Quella sarà una bomba. E sono tutte cose che facciamo al Viper come location. E poi c'è sempre il nostro lavoro sulla dubstep o sulla fidget, insomma i generi un po' più underground, che portiamo avanti H21 con Alessino, Crono, Slash. Perfetto. Quindi che saranno di giovedì, Hi-Fi Bar, il famosissimo Hi-Fi Bar. Ok. Ricordiamo, salutiamo soprattutto Arge che ci stava ascoltando. Sì. Un saluto che al quale dico che, cioè, il prossimo è lui. Sì, il prossimo lui e Leo devono venire. Leo è a Berlino, Arge stasera poi era a suonare al Cargo. Ah, perfetto. Vabbè, la prossima è loro. Poi Roots Ride da Tirana addirittura, Mauro Sodano e Tony da New York, cioè Tony è ex Tony da Modena, adesso Tony da New York. E anche un saluto a Foster. Foster soprattutto, che verrà venerdì a Firenze, saranno lui e Ganji a fare più hip hop, penso, non proprio dubstep, all'Ippodromo. Comunque i fratelli verranno a cena da noi, siamo molto contenti perfetto, di averli a Firenze. Perfetto. Altro da dire? Due riferimenti, due link. MySpace, ovviamente MySpace, www.myspace.com, Numa Crew. Se no, soprattutto cercateci su Facebook, e noi siamo degli infognati smanettatori. C'è Boz Numa Crew, Lapo Numa Crew, Da Ninjas MCR. Perfetto. Twitter nulla, non abbiamo un cellulare. Anche se ci sono. Un cellularino come il tuo. Anche. Ci sono i vari account. Che però sono morti, credo. Bots all'account, mi pare, su Twitter, c'è. Giusto? Sì, ce l'ho. Ok. Mi avete beccato. Bene. Voi volete sharare le cuffie e il microfono? Volete dire qualcosa? Jacopo, Vincenzo? Vabbè, mi avete passato le cuffie e dirò qualcosa. Beh, che c'è da dire? Niente, seguiteci soprattutto live, perché Numa Crew è una formazione da live oltre alle produzioni. E prossime serate, Lapo, non te ne andare. E vabbè, già detto, sì, ok. Allora, stiamo informati su Faccia Libro per avere tutti gli eventi nuovi e così via. Perfetto. Buono. Quindi possiamo lasciare il set a Bubu domani troverete chiaramente la puntata scaricabile con la playlist come al solito sul tardo pomeriggio su www.ragnampaisa.blogspot.com. Date le date, le date, le date, anche perché te hai fatto i contratti, poi ti fanno il cazziatone se non sì, dopo non mi arriva l'assegno mensile, capito? Hai capito, anche perché iniziamo dalle cose proprio più imminenti. Venerdì è una giornata piena di appuntamenti al Pisa sui 98.9 alla centrale, c'è l'ennesimo appuntamento di Black Friday che questa volta ha come ospite una vera e propria band, si chiama John LaForge e poi DJ Resident Pizzo e Fonks. John LaForge, Sì, si chiama così. Funk, dub, soul, afrobeat, breakbeat, UK funk, disco, dubstep e chi più ne ha più ne metta. Invece sempre venerdì 3 alla Flog ci sono gli Israel Vibration dentro, okay, Vibra Night. E l'altro appuntamento che vi consigliamo come Ragnar Paisa è sicuramente quello di sabato prossimo al cantiere San Bernardo di Pisa. Certo. Sabato 4 dicembre con il live di Ad Burk. Perfetto. Basta, direi che ci siamo, tranne un'anticipazione che mi hai segnalato tu, un'anticipazione per un concerto che si svolge venerdì 10 dicembre, ma siccome si svolge a Bologna, esatto, forse è meglio che lo diciamo un po' prima. È chiaro, perché la gente si avvantaggia. Yes. Precisamente è all'ex Rubido, che adesso si chiama B-Box, questo è il nome del locale, via Maserati numero 9, lì con un'entrata di 18 euro, vi beccate niente poco di meno che M.O.P. M.O.P. In ballotta c'è qualcuno a suonare. Guarda, nella data del giorno prima a Milano ci sono Bassi Maestro e Gaemon. Quindi okay, se tanto mi dà tanto, i nostri scendono con M.O.P. anche nella data di Bologna. Perfetto. Poi. Ti risulta altro? No, a no, parte che si è fatto 1-1 a Torino. A parte questo. Vabbè, di questo parlerete con il vostro fido Benedetto Ferrara. Come al solito, cioè, partita rubata come sempre. Il suo sogno è venire a fare una trasmissione solo sulla viola a Controradio. E io lo proporrei anche, sai, questo è il bello. Lasciamo il set a Bubu. Non continuiamo con no, con le chiacchiere calcistiche. Con le chiacchiere calcistiche. www.ragnampaisa.blogspot.com, lì trovate tutto da domani oppure sui vari social network. See the star that I be with a Hubble telescope. You can tell them dope dog bite through the muzzle, cause y'all can't silence the kid. But yours antsy, breathe life in your ears, fill up every nook and cranny. The Bronx weapon next man, damn, I'm on candy and screaming on you petty ass niggas like a banshee. The weapon mode about to spark an episode that penetrates through your flesh, blast with the spectacle of Van Kermit's with the 16 sharp dark flies is a far cry. Check my history's archives, you're running off with the mouth. Y'all a bunch of small guys, fuck up your memory, corrupt your brain's hard drives. No solution, it's no quick fix. The forge and lands ground your mission before this shit start aborting it. My American friend, the CIA thinks it can infiltrate the mountain of Dr. Grun. You can't scare me, you little bastard. Take him to Detroit. No! No, not Detroit! No! No, please! Everything was that! No! Yeah. I want y'all to take a trip. Come to a place where I live. Where I breathe. Where I raise my seeds. The murder mitten. Detroit. Let's go. It's journalists reporting live from the killing fields. Where it ain't no future in your front end, cause the killing's real. Hustle capital, where it's all about is real. If the straight bullet don't kill you, then the hustle will. Home of big proof, also his resting place. Actually, I don't think he'd have it another way. The home of thugs, still a dog in a homie breed. Even though we came from Flint, he still rep the D. Ask Marv, he'll tell you what the talk's about. Even Iverson had to see what it's all about. Every dude that ain't a player got a player's clout. Raised with a horse and mental, that's without a doubt. The most dangerous city, and risk to raise a family. But we got the illest rappers in the whole country. From Everlast to Trick Daddy and Young Bird. Got the Detroit stalkers for they choice words. It's all real, the home of the ice cold grill. Where it goes down for real, you best chill. It's all real, home of the bad boys and we still. Reigning champs, you know the deal. Yo, it's all real, even though the money got us steal. We surviving by the strongest will. Yo, it's all real, loved overseas cause we ill. Killers better flow, you need to feel. Yo, it's all real. Nigga, I'm back on my grizzly bear. I'm living at the top, come and visit me there. I know a lot of rappers finna be scared because they full of green like they eat Claire's donuts. I'm so flush, the flow's nuts. Oppose us, the foes, plus your soul's touched. I put hands on the hands, let a nigga keep sticking his head out. I swear I put brands on. on it. My notebook's full of fire, cook grands on it. Your boardwalk is gone if the crook lands on it. I need all of mine. Electric company need more to shine. Yeah, you'll get yours all in time. But right now, this is all me. It ain't a bitch in my squad, and this is all G. I am everything that you wish you'll be. If you wanna learn how to do it, my nigga, call me. It's all real. Kill the home of the ice cold grill. Where it goes down for real, you best chill. It's all real. Home of the bad boys, and we steal. Reigning champs, you know the deal. Yo, it's all real. Even though the money gotta steal, we surviving by the strongest of will. Yo, it's all real. Loved overseas, cause we ill. Spit a flow, you need to feel. Yo, it's all real. I cause chaos when I'm back by the maestro. Get sensational when I rap with a tight flow. You'll be fiending when you get the injection of the raw sound of Motown you've been expecting. The inspiration of Donald Goins to Beaver Adams. This a televised revolution, the cause active. We'll make your four face fit in a classic cadence. That's why we sing it with urgency in the prime stated. That's Rock City, where we study the art of ink. We make do as we steady search for the missing link. This the sound of the city blowing like pipe bombs. You have to sound the alarm knowing the outcome. Get prepared for the preface of a new beginning. A new chapter of hip-hop from the murder mitten. Cause what's the creed for every man will come to pass? Left as we present you the cash. It's all real. The home of the ice cold grill. Where it goes down for real, you best chill. It's all real. Home of the bad boys and we steal. Reigning champs, you know the deal. Yo, it's all real. Even though the money gotta steal, we surviving by the strongest of will. Yo, it's all real. Loved overseas cause we ill. Spit a flow, you need to feel. Yo, it's all real. Hey, killers. Just breathe a little. and just let it breathe a little. Let it breathe a little. Just let it breathe a little. Let it flow. Let it breathe a little. Just let it breathe a little. Let it breathe. Do it. Church music, tip your wine glass to it. So foolish, red fluid in plastic cups. Club packed like Shaq in a Zion truck. The boys back rely on us to reply with that dopeness to drug you up. Fly freaks wanna walk, no calls, leave it at the beat. Long line outside, but we VIP. Long grind all week, celebrate free. Like masturbation, I'ma do me. Yeah, baby, do you cut off things? Earring hoops, pose like a photo shoot. Woo. Me and Mad Lib, two bottle, four glasses. Yeah. With 10 models fighting over two passes. Damn, tryna hang with the what's happening now. M.E.D. Arithmatic. Tryna have Vegas till you all feel. Real live, get suited, bringing that dope music. Yeah, with a shit getting blown like a trumpet. Yeah, tell the DJ, turn that up. Bartender, refill my cup, I feel good. Sunday afternoon, man, we drunk, play cool. Post by the girl bathroom. Scroll to my MOB, you still hatin'. Man with a black and Asian sweet fragrance. From bad grades, not graduating. To now famous, back on the A-list. West Coast entertainment, banging. Still want that same shit, weed, old English. Raw beats at the Sarah Vegas. Blow weed with security, break up. Freaks on the floor, play you do your thing. And bet next week, we gon' do it again. Do it again. Get suited, bringing that dope music. Get live. Real live. With a shit getting blown like a trumpet. Pit. biatch, biatch, biatch. Ragnar Mike.